scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Tornano quest'estate gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura. Gli incontri di Voci in Scena. Nato a Roma nel 1956, debutta in teatro con la cooperativa Teatro G nel 1977. Il palcoscenico lo accompagna per tutta la carriera, ma il grande pubblico lo conosce per i suoi successi al cinema e soprattutto in televisione. Al cinema si fa conoscere nel 1991 con i film La Riffa e Chiedi la Luna. Nel 1994 interpreta il giudice Rosario Livatino nel film Il Giudice Ragazzino, che gli porterà il David di Donatello. Con Pasolini, Un Delitto Italiano, arriva in concorso alla 52esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel 1997 approda alla fiction televisiva partecipando a La Casa Bruciata, ma il grande successo arriva l'anno successivo quando partecipa alla serie TV Un Medico in Famiglia per Rai 1, dove interpreta il ruolo del dottor Lele Martini. Un ruolo che alternerà ad altri personaggi di successo, ma che resta nell'immaginario dei telespettatori italiani. Negli anni 2000 interpreta anche il commissario protagonista nella serie TV di Rai 1 Una Famiglia in Giallo, per Canale 5 il ruolo di Don Luigi di Liegro e Don Zeno, l'uomo di Nomadelfia. Partecipa a Cugino e Cugino con Nino Frassica e a Fuori Classe con Luciana Littizzetto. Nel 2014 pubblica il suo primo libro, Ti ricordi la Casa Rossa, Lettera a mia madre, dedicato alla madre affetta dalla malattia di Alzheimer. Lo abbiamo intervistato al Taormina Film Fest, dove ha incontrato centinaia di studenti siciliani. Lui è Giulio Scarpati. Spero che abbiano le stesse opportunità che ho avuto io, anche di sognare di fare l'attore, di fare magari le cose che le loro passioni. È un momento molto difficile per questo paese, quindi le passioni sono importanti e noi abbiamo come nostra generazione un pochino con un certo cinismo, con un certo l'idea che tutto va male, tolto anche alle giovani generazioni invece il desiderio, il sogno, cioè la possibilità di sognare una passione e realizzarla, per cui io spero che il futuro sia proprio preso in mano da loro. È un momento difficile chiaramente, però bisogna essere ottimisti. A proposito di sogno, il mestiere dell'attore è un sogno, ma anche il mestiere che genera più sogni, quindi nessuno più dell'attore ne sa e conosce il sogno. Beh sì, nel senso che c'era una volta, insomma, no? È la favola, è il racconto, è iniziare da una storia e portare il pubblico a sentire questo racconto, per cui è molto suggestivo. In più noi, perché insomma c'è un cinema che può essere anche molto, molto alto, molto forte, molto capace di raccontare anche storie semplici, ma dandogli un peso molto forte, per cui insomma ne abbiamo visto anche di cinema straniero, italiano, che è riuscito ad avere questa cosa. Noi siamo riusciti appunto quest'anno anche ad avere dei riconoscimenti importanti come l'Oscar, e quindi dobbiamo continuare nella strada di cercare appunto sempre di più di affondare sempre di più nelle nostre radici, nella nostra capacità di racconto, ovviamente, come poi è successo nella Grande Bellezza, che si rifaceva sicuramente a modelli alti del nostro cinema. Così io penso che sia importante insomma raccontare il presente, che forse è la cosa più difficile, no? Più facile magari rivolgere lo sguardo al passato, è più semplice raccontare una storia che già conosci. La contemporaneità è la cosa più difficile, ma un cinema, diciamo così, forte è un cinema che sa anche raccontare il presente, per cui bisogna avere coraggio e quindi non aver paura di raccontare anche cose difficili, storie che magari ci sembra impossibile raccontare. Cioè il cinema è questo, che può raccontare anche l'impossibile. Papà, dov'è la tua borsa da medico? Sta di là. Di là dove? Non lo so, circa, sarà in cucina, in camera da pranzo. In cucina, in camera da pranzo? Non me lo ricordo. Va bene, vado a cercarla. Sì. C'è Maria, c'è Gemma. Io voglio te, amore. Io sono qua. Vedi, però io, quando si tratta dei miei figli, mi prende il panico. Tu devi farlo nascere, questo bambino. 5 figli, 3 svenimenti. I gemelli no, perché stavo al telefono, quindi un'altra cosa. Ok, facciamo una cosa. Ti tengo io la mano. Grazie, ok. Tu hai fatto tanto teatro, sei uno di quelli accademicamente teatranti e teatrali, cinema, e hai avuto il grande successo con la televisione. Con questo Medico in Famiglia, anche se ormai tu hai abbandonato la professione, hai abdicato al giuramento di Ippocrate, cosa pensi quando ancora ti chiedono ma tornerai al Medico in Famiglia? Perché te lo chiedono con una passione, con uno struggimento, no, hai spezzato dei cuori. Sì, io mi sento anche cattivo, tra virgolette, forse è una delle poche volte che mi fanno fare il ruolo di cattivo, però nel senso che io capisco pure il desiderio anche di chi magari si è formato con questo, però nella professione di un attore devi fare tante cose, cose diverse, e per questo io credo che sia importante anche misurarsi con cose assolutamente diverse, no? Io quest'anno ho scritto anche un libro, insomma, ti ricordi La Casa Rossa che è uscito un po' di mesi fa e che racconta la mia storia, mia infanzia, adolescenza, il rapporto con mia mamma che appunto è stata malata d'Alzheimer, e quindi racconto, come dire, come sono cresciuto, quello che mi ha dato lei, insomma, in un momento particolarmente difficile anche per me, sono riuscito a trovare in qualche modo le parole, non ero sicuro di potercela fare per raccontarlo, e questo mi ha fatto, forse anche fermarsi certe volte ti fa anche riflettere, ti fa riflettere su quello che, insomma, non andare sempre di corsa, no? Ma di fermarsi un attimo, riflettere sulle cose. Sicuramente se hai un parente malato d'Alzheimer sicuramente ti devi fermare per forza, perché i problemi che hai di fronte non li puoi risolvere con facilità, per cui devi riuscire a trovare la forza di parlare emotivamente alle persone, di comunicare su una sfera che non è più quella logica o delle parole o del discorso, per cui anche quello è stato un'esperienza, diciamo così, dolorosa ma importante. E poi cerco di fare anche cose diverse, anche di misurarmi con cose diverse, questo programma per Rai 3 in una veste un po' inedita di conduttore. Io presento delle storie, sono storie di persone normali, di persone sconosciuti, si chiama Sconosciuti Collection, e quindi l'idea è quella di dare anche, credo che da questo non è che vogliamo dare un messaggio positivo, da queste storie viene un messaggio positivo, che è quello che, insomma, si può uscire anche da una difficoltà, e certe volte le difficoltà si somigliano, quindi è come se uno vedesse nello specchio le cose che in realtà capitano anche a te. E solo in un racconto oggettivato di una persona che non sei tu ti sembra tutto molto più chiaro. C'è un momento che cambia la vita di ciascuno di noi. A me è successo quando ho capito che volevo fare l'attore, volevo calarmi dentro personaggi sempre diversi, vivere mille storie, imparare da quelle vite immaginarie o da storie vere, come mi è capitato quando ho interpretato Rosario Livatino nel film Il Giudice Ragazzino. Ecco, questa sera un po' di storie, un po' di vite, le riviveremo insieme. Però in questo caso non ci saranno né attori né sceneggiature. Saranno storie vere, persone, si è detto tra mille virgolette, normali. Forse basta dire persone. Devo tornare al tuo libro. Tu hai scritto della tua storia, hai aperto i tuoi cassetti. Ti ha messo però voglia di raccontare, di scrivere, di aprire anche una nuova porta? No, guarda, non lo so, io per ora l'ho fatto proprio perché questa era una necessità che sentivo. La cosa che mi conforta è che quelli che lo leggono, che hanno anche situazioni di malattia o di persone, parenti eccetera, mi dicono mi ha tirato su, perché l'intento era proprio quello, era quello di non pensare a Mattia nel suo disfacimento, nel suo, quello che porta di distruttivo, ma di pensare a quello che le persone, che a quello che hanno rappresentato per te, quindi tutto quello che ha rappresentato mia madre nel corso della mia vita, da piccolo, da grande, da attore che muove i primi passi, e in questo senso anche dare sempre un messaggio positivo alle persone che soffrono questa condizione, e che imparare a parlare senza parole, imparare a parlare con i sentimenti, con i gesti, con l'affetto, quello sicuramente le persone che vivono questa malattia terribile lo percepiscono. Forse non percepiscono tu che dici delle cose logiche, ma il tuo affetto lo percepiscono. Allora è anche un invito a me stesso, è stato, a uscire dagli schemi e pensarmi in un altro modo, quindi comunicare in un modo più istintivo, capire in che mondo stava mia mamma in quel momento, cercare di riuscire a trovare un varco per aprire una comunicazione e magari un sorriso. Tu hai citato Gomorra, la serie, sì, come un esempio di alta qualità. La televisione si sta avvicinando, in America già ha superato spesso la qualità del cinema. Tu sei stato uno dei primi a lanciarti anche nella televisione, come lo vedi questo immediato futuro? Ma io penso che il compito sia quello di fare le cose non solo con passione ma anche con grande amore per quello che si fa, e comporta il lavoro, comporta fatica, tempo. Non si scrive una storia bella in poco tempo, non si scrive una bella sceneggiatura in poco tempo, non si fa un prodotto di qualità in poco tempo. Si deve curare il prodotto in tutti gli aspetti, dal costume, scenografie, sceneggiatura, regia, attori. Allora, quello che è importante è tenere alta la qualità delle figure professionali all'interno di un lavoro. Ciascuno deve essere messo nelle condizioni di lavorare al meglio, e sicuramente dobbiamo uscire un po' anche dalla considerazione che magari è televisione, no? Detto in senso un po' dispregiativo, nel senso come dire tanto si bevono tutto, non è così. La televisione ha un grande compito importante, sociale, un grande compito di raccontare tante storie e smuove anche le coscienze, per cui è una grande responsabilità. Io penso che però variare anche i racconti, variare le storie, riuscire anche ad andare in quelli che sono racconti più difficili, deve essere un compito anche della televisione. La televisione negli anni, anche gli anni 60, ha avuto un grande compito di crescita di questo paese, proprio perché si poneva in qualche modo dei principi educativi in un certo senso. Io non voglio essere una televisione didascalica o così, o non so, didattica, però penso che se il livello culturale è di un certo tipo, la televisione ha l'obbligo di alzarlo dello 0,5 e continuare a fare così. Così cresce un paese culturalmente, e quindi cresce anche una qualità di prodotto, insomma, che magari si può vendere anche all'estero. Ed è tutto per il Voci in Scena di oggi, l'appuntamento è a domani alla stessa ora.